Vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate. Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo. Sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano. Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi. Ma ti devi vergognare tu e le persone. Io tanto non gli ho dato del tu, gli ho dato del lei. Comunque lei, ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu. Un linguaggio così scurrile. E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe? Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo. E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè adesso, spegni la radio, non ci rompi coglioni. Io ti lo vedi, lo vedi. Tu del tuo figlio della mignotta. Ma scusa, ma non bisogna dire le parole. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Io fratello, senti, mi sto pisciando addosso, quindi nel mio cesto. Aspetta, non già non sento niente, Willy, già non sento niente, per cui cominciamo subito malissimo. Mi senti meglio adesso? Sì, leggermente meglio, dimmi Willy, dimmi. Mi sto pisciando addosso da un po', quindi nel mio cesto non prende tanto il telefono, quindi vattene a fanculo. Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione. Grazie. I am the light in the darkness. Your friend. Ma come cazzo fai a parlare alla radio con argomenti così penosi? Come fate? Fabrizio, come fate? Adesso ti mando a fare adesso, con argomenti adesso così ti ridicoli. Mando a fare in culo perché ma io sono. Ma siete penosi! Ma questo è un siete coglione! Siete penosi! Comunque questo è uno sfogatoio per malati di mente erotomani, non so che ma tu sei un poveraccio, ma sei un meschinetto, sei un poveraccio, sei un meschinetto, fate parte di questa classe dirigente penosa. Io vi sto ad ascoltare e mi domando come cazzo fate a campare. Ma a chi ti stai rivolgendo, scusa? A tutti. A tutti chi? Tutti. A tutti, a voi tre. Siete in tre, no? E allora? Siete come gli Emerson, Lake e Palmer. E allora? Siete in tre. E allora? Niente, basta così, per me può finire qui. Senti, cambia canale, non rompere il cazzo, vattene a fanculo, brutto troppo. Ragazzi, ma ci rendiamo conto che c'è in giro un esercito di donne che ha leccato o continua ancora a leccare il buco del culo di Gottardo e di Cruciani? Cioè, a me sta cosa sconvolge più della pandemia, degli ospedali intasati, dell'attentato di Vienna. Andatevene a fanculo, va. Ma è normale? Attenzione, attenzione Gottardo, potrebbe arrivare la zona arancione in questa follia dell'Italia colorata. Beh, sul letto, sul lettone, anzi dov'è comodamente adagiato, mollemente. Potrebbe arrivare l'ondata della zona arancione. A me che me ne frega, scusami. Ma tu resteresti aperto in quelle terme? Resteresti aperto? Sì, no, guarda, ti do una notizia in anteprima nazionale. Qui da fra 48 ore si entra solo con il tampone e passano solo i negativi al tampone. Quindi una cosa, direi, che mi tranquillizza ancora di più. Bene, in collegamento quel cazzo che vuoi fuori, benissimo. A me che cazzo me ne frega. In collegamento da Roma, David Parenzo. Buonasera, un caro saluto anche dal dottor Brusaferro. In quattro regioni misure da anticipare. Si tratta di Campania, Emilia Romagna, Veneto e Friuli. Certo. A tutti coloro i quali dicono si poteva fare diversamente, vi dico come. Fatelo. Certo. Fatelo. Il manutengolo certo, del Brusaferro. Fatelo. Ormai fatelo, è portavoce del governo. No, no, portavoce di nessun governo, perché non me ne frega nulla del governo. Io guadagno a prescindere dal governo. Sì, esatto, ma Brusaferro, esatto, lo stipendio, chi glielo paga? Le tasse di quelli l'Istituto che producono. Superiore di Sanità. Se non fai più produrre, sì, ma non è che nessuno, deve piegare i dati a tuo favore. Lui fa lo scienziato, non è che deve piegare in base alle tue esigenze. Campa d'aria Brusaferro. No, è uno scienziato, campa di scienza a differenza tua. Campa dei soldi delle tasse di quelli che producono. Campa di scienza a differenza tua. Non produce più nessuno. Campa di scienza a differenza attenzione tua. Attenzione ragazzi, però il protagonista di oggi assoluto si chiama Tiani. Si chiama Tiani, Tiani, ragazzi miei. È un perfetto sconosciuto, naturalmente, Giuseppe Tiani, segretario nazionale della polizia, di uno dei tanti sindacati della polizia, il quale è sentito in audizione alla Camera. Poi non si capisce perché alla Camera i deputati sentono in audizione chiunque. Chiunque viene sentito in audizione alla Camera dei Deputati. Tale Tiani se ne esce in questo modo. Sembra incredibile, siamo nel 2020, sembra incredibile, ma è così. Il ciondolo micropurificatore d'aria da distribuire a polizie e medici, un ciondolo, lui dice, di tecnologia israeliana, una specie di neutralizzatore di batteri. Una cosa incredibile. Siamo in Italia, ragazzi. In Italia. Questo qua è un sindacalista della polizia. Porca puttana. Io oggi porto al collo questo micro purificatore d'aria che costa 50 euro. Questo micro purificatore d'aria di tecnologia israeliana, per un metro cubo intorno alla persona, genera dei cationi che inibiscono praticamente qualsiasi virus abbia segno positivo. Ma cos'è una televendita? I cationi. Chi è Mastrotta? I cationi. L'ho pagato 50 euro, ma le prime 10 telefonate ne arrivano 2 per 45. Cosa pazzesco. Ma cos'è? Pazzesco. Ma cos'è, un'audizione della Camera, una televendita di Mastrotta? Incredibile. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Ma è la polizia che praticamente... E voi lo difendete. Vabbè, no, io non riesco a capire perché. È indifendibile. Non riesco a capirvi, io non vi riesco a capire perché lo difendete. Mi fai sentire... Perché non dite chiaramente che dice delle follie. Mi ditelo fai risentire questa cosa. Fatemi risentire questa cosa. Ma ditelo, ditelo. Allora, no, no, perché è vi spiego. Aspetta, questo non vuol dire niente, ragazzi, lo dice lui. State questo. Zitti, state zitti. Vi spiego la cosa. Audizione della Camera ufficiale, dove uno dovrebbe parlare, diciamo, non fare la vendita di un prodotto. Ma senti che cosa dice? No, lo voglio far risentire, senti. Io oggi porto al collo questo micro purificatore d'aria che costa 50 euro. Questo micro purificatore d'aria di tecnologia israeliana, per un metro cubo intorno alla persona, genera dei cationi che inibiscono praticamente qualsiasi virus abbia segno positivo. Cioè, ma però io ti giuro, ma nemmeno Vanna Marchi, ma nemmeno Vanna Marchi era arrivata tanto alla Camera dei Deputati, non è mai entrata alla Camera dei Deputati. Dai. A voi farebbe, io voglio dirvi questo, a voi due farebbe comodo che il ministro della salute ingaggiasse fosse questo. Vanna Marchi. D'accordo, oggi abbiamo 35.000 nuovi casi su 217.000 tamponi e solo 580 morti, d'accordo? Scusi, signora Marchi, ma lei ha un rimedio? Signora Marchi, lei ha un rimedio? Io sono 20 anni che dico che il sale naturalmente cura. Naturalmente, vedi come si inoltre, poi si confondono le cose. Io ho detto che sono 20 anni che ho il sale, il sale, d'accordo? Ma prosegue. Don Nascimento, a voi al noi. Posto di Brusaferro vi farebbe comodo che... Don Nascimento a voi. Ma qual è il problema? Siete contro la cultura scientifica. Perché tu pensi che Speranza si sia comportato meglio della Marchi? Siete contro la cultura scientifica voi. La Marchi al posto di Speranza si sarebbe comportata peggio? Chiamala, chiama Stefania Nobile. Chiedi alla Nobile cosa farebbe lei al posto di Brusaferro. Chiediglielo. Chiediglielo, visto che vi fidate di questa gente qua. Sindacalista di polizia 2. D'accordo! Andrebbe distribuita alle forze di polizia del paese, a tutti i sanitari impegnati, perché questo ci darebbe una mano a fare più serenamente il nostro lavoro e soprattutto a combattere il virus con la tecnologia. D'accordo! Da distribuire a polizia e medici. da distribuire a polizie e medici. Questo signore è anche pagato, è stato nominato però, dal... Ragazzi, però non è una brutta la dico idea, tutta, la dico tutta, è molto amico, pare che sia molto amico di Fiano, mi dicono, molto amico di Fiano del Partito Democratico. Cosa vuol dire questo? No, ed è stato nominato da Emiliano a Innova Puglia, che è un ente regionale, e no, prende 40.000 euro. Ma se la tecnologia funziona, questo cosa vuol dire? Innova Puglia è un ente no, per... No, ma fermo, ma fermo. Aspetta, ma aspetta, stiamo dicendo... Parenzo sta dicendo che funziona questa tecnologia. Io non lo so, non ho verificato. Se tu stai dicendo che un ciondolo potrebbe funzionare contro il Covid. Io so una cosa, però. Io so che tutte le più puttanate in Israele, io so che tutte le più grandi innovazioni da lì vengono, quindi non lo so. Cioè, solamente perché viene da Israele, Parenzo. Il vaccino lo fa la Pfizer. Beh, francamente, il vaccino non lo fa Israele, l'hanno trovato gli americani, gli americani l'hanno trovato, gli americani con dei turchi in mezzo, ci sono anche dei turchi, c'è una scoppola pazzesca per Israele. Zitto, ma no, state zitti, cosa c'entra state questo? Zitti, dai, la ricerca internazionale per definizione è un neutralizzatore di batteri, quindi ci sono degli elementi di concretezza su cui si può lavorare. Un neutralizzatore di batteri, ragazzi. Però funziona solo se sul ciondolo c'è anche Padre Pio. Forse sai, è stato drogato pure lui. Forse l'hanno drogato pure lui. Weekend a Torino, pieno di vecchi di merda in giro. Avete rotto i coglioni. La Zanzara. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free di Internet. Devo correre, il tempo è tiranno. Alle 4 del mattino 750.000 voti di vantaggio per Trump in Pennsylvania, bloccano tutto, alle 6 riaprono, voti per Trump non ce n'è più e ci sono solo voti per Biden. E per Parenza e per tutti i giornalisti di merda italiani, sia di destra che di sinistra, che si congratulano con Biden, questi si devono vergognare, che minchia chi ce ne so. 750.000 voti di vantaggio e poi voti per Trump non ce n'è più, voti via posta truccati, voti via posta taroccati con date cancellate e riscritte. Ma dove l'ha visto questo? Tutti per Biden, guarda caso. Trump dalle 5 del mattino non prende più voti da nessuna parte, prende i voti solo Biden, è tutta la celebrata a Biden. Vi dovete vergognare, il trampone ve lo metterà il suo pinnolone dentro al vostro culo, ricordatevelo, il trampone ve la schiafferà in culo a tutti e poi vi dovete inchinare e dovete chiedere scusa, maledetti schifosi. Vi pare che la va a dire la CNN con il presidente degli Stati Uniti, la va a dire la legge e si barano, deve essere dimostrata e non devono rompere i coglioni, il presidente rimane The Donald. Maledetti! Comunque ragazzi, secondo un articolo non di un giornale del cazzo, credo un giornale inglese, Financial Times, non mi ricordo cosa, di oggi, la Pfizer poteva comunicare risultati positivi sul vaccino prima delle elezioni americane. Ma non l'ha fatto per non cambiare l'esito. Ma non l'ha fatto per influenzare per l'esito. Per non influenzare e l'esito. E come mai? E come mai, ragazzi? Non voleva che venisse usato, ragazzi, a destra e a manca. Come mai? Come mai, secondo te? A chi poteva convenire questa cosa qua, no? Annunciare un vaccino? Beh, a chi poteva convenire? Poteva, in a realtà... chi poteva in realtà la verità, poteva, chi convenire, poteva convenire entrambi. Trump da una parte ne avrebbe potuto trarre vantaggio. Dai, allora su, vorrebbe dire che la Pfizer è sì, dal Viagra dal Viagra Trump avrebbe potuto trarre vantaggio la moglie che ha irrompe Meluzzi. Ah, ci serviva una visione autorevole delle cose. Mancava coloro che si opporranno a questa dittatura planetaria, credetemi, non vorrei essere davvero un profeta di sventura, saranno schiacciati, perché chiunque pronuncerà una parola, per esempio, contro l'idea che due omosessuali possano affittare un utero e generare un bambino e prenderlo alla madre, saranno semplicemente arrestati e probabilmente portati in carcere. Un regime tra i più totalitari, mette tutto insieme, la questione gender, gli omosessuali, l'utero in affitto, ma i microchip, eccetera. Non lo so, il regime planetario. E tu non gli dici niente, e voi non gli dite nulla, per voi è corretto. È bellissimo l'idea, però, scusa, nei libri di fantascienza di Urania, che io leggevo negli anni 90, negli anni 80 e 90, io leggevo, ma non solo Asimov, io leggevo Urania, splendida collana, che esiste anche adesso. Non Meluzza, però Urania leggevi, non Meluzza. C'era questa idea del governo planetario, sì, cioè non è un'ipotesi artificio. Così assurda che ci siano delle persone che governano il mondo. Cazzo, era la letteratura, porca puttana, dove lo metti Giulio Verne? Verne era letteratura, cazzo, non Meluzzi. Ci sarà, come dire, un regime come forse non è stato mai conosciuto nella storia umana, neanche nelle forme sue più totalitarie, dal fatto che siamo tutti connessi a un telefonino, dal fatto che per sopravvivere dovranno impiantarci qualche elettrodo da qualche parte, dal fatto che con la rete 5G saremo controllati in ogni angolo della Terra, cioè quello che ci attende o quello che attende i figli della luce nei tempi a venire sarà veramente terrificante. Non ci possono essere 10 persone che controllano tutto, Meluzzi. In un mondo abitato da 9 miliardi di uomini, come si può lasciare la gente libera di fare che cazzo vuole? Bisogna che ci siano 10 che decidono per tutto e che attraverso la tecnologia e la finanza planetaria globalizzata le impongono. E poi, siccome gli europei e gli italiani non hanno fatto figli, devono lasciare posto agli afroislamici anche nella loro penisola. Questo è il ragionamento che viene fatto e che, credetemi, sarà imposto. Irrompe anche la dottoressa Silvana De Mari, vecchia conoscenza di questa emissione radiofonica. Vogliono resettare tutto, no matrimoni, ma senti. Non è roba raccattata sul piccolocomplottista.com. Bisogna resettare la nostra civiltà, cioè? Eliminare questa nostra buffa mania di andare in chiesa, di avere dei funerali, nessuno dice questo. Gli invitati, di fare l'amore, poi passare il virus. Ma chi l'ha detto? Masturbati davanti a YouPorn è più divertente. Non ho capito, ma nessuno vuole impedire a nessuno di scopare. No, cioè dice che vogliono imporre la masturbazione davanti a YouPorn. Ma non è vero. Ancora. Bisogna però tenere gli ospedali pieni. Come ci riusciamo? In primo luogo sono ricoverate tutte persone col Covid lieve, non potevano curarsi a casa loro, no, perché i medici non li curano. La maggioranza dei medici della mutua non va a casa a vedere i pazienti. Non andate sui balconi a cantare, perché questa volta vi ammazzerebbero. Potrebbero abbattervi a colpi d'ascia o a colpi d'arma da fuoco. Il dubitativo è solo sul tipo di arma, sul fatto che vi faranno fuori, no. Quindi non cantate sui balconi, perché altrimenti dopo che verranno ammazzati, in ospedale vi faranno il maledetto tampone e sarete classificati come morto Covid. E soprattutto tirate fuori un rosario e pregate alla Madonna. Perché? Perché il rosario è una battaglia, è una piccola battaglia che noi facciamo, una battaglia contro la nostra indisciplina, la nostra voglia di fare altro, quindi vi allena a combattere. Comunque ragazzi, tra le notizie di oggi è la conferma per gli amanti del calcio, non solo, la conferma della sconfitta del Napoli 3-0 a tavolino con la Juventus e meno uno di penalizzazione. Io voglio dire a tutti quelli che hanno parlato in questi giorni e che si appellano sempre ai giudici, che possono sbagliarsi, vi leggo le ultime righe di questa sentenza. Concludendo, la società ricorrente, cioè il Napoli, merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino eccetera eccetera, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica, perché, contrariamente a quanto sostenuto, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo invece indirizzato in modo volontario e preordinato la propria condotta nei giorni antecedenti all'incontro, nel senso di non disputare, lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l'ordinamento sportivo, la lealtà, la correttezza e la probità. Cioè tutte le cose che questi qua ogni tanto rimproverano la Juventus, considerata la squadra dei ladri, nero su bianco scritto in questa roba qua del giudice. Hanno fatto una simulazione prima della partita. E la Lazio, fermo, a proposito c'è il demone. Dei tamponi, mamma mia, i tamponi, come sei noioso, il demone. Perché non ne parli dei tamponi della Lazio? Quando abbiamo le sentenze vediamo. Perché, demone, vai. quando abbiamo le sentenze, perché poi il Napoli a prescindere della Lazio, perché non puoi parlare comunque della Lazio? Sentenze, ciao Parenzo, le sentenze, la Lazio po- dimmi, demone, dimmi, dimmi. Della Lazio, oh, niente, ascoltate, ho acceso il 5G, ma hanno... 5G? Non c'è. Avevo 5G, un problema... No, c'è il 5 GHz, c'è già nei router. Ma dove? Avevo un problema di connessione. E mi hanno detto, è il PC, o se no ti è problema accendere il 5 GHz, che c'ha meno problemi di Appena me l'hanno acceso mi è venuto un mal di testa nell'emisfero, nell'emicrania. Cioè tu sei, devi metterti della stagnola in testa, sai demone, se ti metti del domo, della stagnola in testa, ma mettiti il domo pack nel culo, palla. Sì, sì. Viva la marijuana, palla, vaffanculo, proibizionista. Dell'alluminio, io ti assicuro, demone, attaccalo che è un proibizionista, sì. Attacca tutti quelli che si drogano, attaccalo demone. Un caschetto di alluminio in testa. Un caschetto di alluminio in testa. Sì, come in Futurama. Poi anche dell'acqua con del sale devi bere e fare dei gargarismi. Allora, poi accendi una candela viola. Sarà un caso, ma come acceso il 5G mi è venuto mal di testa. Sarà un caso, ma ti droghi a merda e ti viene il mal di testa, sai? Potrebbe anche essere la droga che ti fai. Io bevo una bottiglia di vino, hai capito? Ah, solo una bottiglia? Poco, una bottiglia. Cosa vuoi che ti faccia? Una bottiglia, 50 ml, una bottiglia di vino, cosa vuoi che sia? Peggio. Fermi tutti, demone, poi mi dici che cosa è successo con 5G. Fermi tutti. La zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ma perché fate parlare quel pezzo di merda di Francesco da Firenze? Io sto condonato tutta la vita. Ma chi cazzo si pensa adesso? Prima ha fatto lo spavaldo con Sgarbi, mo condonato. Ma chi cazzo è sto coglione? Ma la colpa è la vostra, l'ho mandata in onda, brutte merde. Una merda, come Parenzo sto Francesco da Firenze. Stessa merda, stessa pasta. Ho un nuovo idolo, il dottor Amici. Parenzo, nano di merda, vai a fanculo tu. Le mascherine, i tamponi e il lockdown, noi non osserviamo niente. Quanto mi sta sul cazzo quel Francesco da Firenze, vorrei averlo tra le mani, gli farei praticare la tortura del bambù, vediamo se avrà ancora fiato per rompere i coglioni a persone rispettabili come Donato da Varese. Volevo dire al legionario da Messina, precisamente Milazzo, che lo vedono girare sempre in bicicletta e tutti quanti quando lo vedono passare dicono: chi è quel coglione con la maglietta nera tutto pompato? Quindi è inutile che fa caccia ai negri, caccia di qua e di là, è la barzelletta della città. Allora, sempre in collegamento con il demone scimmia Luca da Savona, Ale. Il quale demone è incredibile come finora non si sia preso il Covid, ma io sono contento che non si sia preso il Covid. Cioè, no, fino a prova contraria, peggiori anche, o malattie peggiori usando droghe di dubbia provenienza. Quello sì, Gottardo, lo ammetto. Tu lo sai. Tu sì, lo però sai qui che c'è una guerra in corso. La cocaina che tu pippi o che fumi viaggia di solito nel culo dei nigeriani. Ok, lo sai. No, ma no, ma a volte pacchi, però comunque la producono con acidi sulfurici, kerosene. Ma scusami, voi non sapete che c'è una guerra in corso, nemmeno troppo, diciamo, sotterranea, tra Luca da Savona, ovvero il demone scimmia, e Alberto Gottardo, che prima si chattavano continuamente, mi sento tradito da questo qua. Perché tu gli avevi detto di non drogarsi più, lui invece ha continuato a drogarsi. Però sono cazzi suoi. Era rimasto pulito. Ma sono cazzi suoi. Sono cazzi suoi. Luca è una persona fantastica quando non si droga. La droga gli ha spappolato il cervello. Ho capito, però Luca, cioè il demone scimmia, è un antiproibizionista e vuole le droghe legalizzate. Tu invece sei. Ma è una grande sconfitta drogarsi per uno intelligente come lui. Demone, si è fottuto il cervello drogandosi. rispondi a Gottardo, per dai, poi dice che lo hai tradito. No, dice che devi fare qualsiasi cosa nella tua vita. Gottardo, la guerra che c'è tra me e Gottardo alla fine, beh, è molto comunque anche ironica, cioè non ci vogliamo male, ma veramente, chiaro, ok? Ma chiaro, cioè, ci insultiamo un po' l'uno con l'altro, sei un povero coglione della stessa estrazione culturale, questo stai dicendo, Demone, giusto? No, aspetta, sentiamo, preferisco culturale, no, io David, io preferisco andare a cena col Demone che con te, ma non ho dubbi, ma non ho dubbi, avete un background comune, avete un background comune, adesso c'è una guerra invece Gottardo, Demone contro Parenzo, eccezionale. No, ho detto semplicemente che capisco il denominatore culturale comune, ma va benissimo, ma non è un denominatore culturale comune, vedi Parenzo, perché Gottardo è proibizionista, io sono antiprevisionista. Scusa, Demone, voglio capire una cosa. Ti sei fatto un'idea su queste elezioni americane? Sono state truccate, Demone? Hai notizie dalla CIA? Hai notizie dalla CIA? L'analista. Cosa fa l'analista? No, come ma magari ha notizie. Cioè, vale come Rampini. Vale come Rampini. Ha notizie riservate che vengono dal Deep State. Che ne so io. No, io non sono molto informato su questo argomento. Però tornando sulle droghe, allora a parte che, guarda, veramente chiamo la Vodafone, mi dice ti attacco il 5G che ti proviamo a risolvere il problema. Come l'hanno inserito, mal di testa all'emisfero, all'emicrania. Ma sarà il litro, sarà il litro di vino che ti sei bevuto? Ma sarà il litro di vino, scusami, che ti ha fatto mal di testa? Che vino era? Era Chianti da 3 euro a bottiglia. Appunto. Ecco, vedi appunto. Vedi ciao, te. Demone, domande, ciao, Demone. Dai. Ciao, ciao. Viva la marijuana legale, cazzo! Ciao, Demone. Chianti da 3 euro a bottiglia. Marco da Modena, Marco manda da in onda cosa ha detto il virologo Palù invece all'aria che tira. Adesso lo mando. Mandalo in onda, non censurarlo adesso, Marco come da Modena. Dice cose contrarie al vostro sentir comune. Quello beve cherosene è colpa del 5G adesso. Dimmi Marco, dimmi. Eccomi qua, no, volevo sapere dove sono finiti tutti quegli elettori analfabeti che prima avevano votato per i repubblicani 5 anni fa, adesso sono diventati tutti intelligenti, illuminati. Ma nessuno vede che sono analfabeti. Adesso i progressisti hanno detto che erano tutti busduri analfabeti, quelli che votavano Trump. Marco, però adesso ti devi avvicinare meglio, ti devi togliere via voce, l'auricolare, ho qualcosa. Ho capito, non sento un cazzo, amico mio. Sento in macchina. Mi senti? Sì, adesso ti sento, dimmi. No, dicevo, dove sono finiti tutti quegli elettori trogloditi che hanno votato per Trump, adesso sono diventati più intelligenti, progressisti. Sì, adesso sono tutti a posto, adesso illuminati, sono tutti. E adesso c'è un vecchietto tranquillo alla Casa Bianca, un po' prostatico, l'America ricomincerà a fare delle guerre, un visto ticket, che hanno dato il Nobel progressivamente corretto per la pace Obama, che ha fatto 7 guerre, potranno ricominciare a fare le guerre tranquillamente, e così il cattivone. Ma tu sei il famoso Marco Zanasi, cristiano di Antiochia, o sbaglio? No, allora, Antiochia era una metafora, significa che noi pratichiamo il cristianesimo. Ma tu come sei sempre con cioè... Mentre invece in Vaticano c'è una setta che ha trasformato il Vaticano nel palazzo di Erode. Io spero che gli stati promuovano una causa internazionale miliardaria per esercire quelle decine di migliaia di vittime di abusi che sono stati amputati nella loro vita, che è stata rovinata. Alla Roberts fanno pagare scusami, miliardi, Marco tu adesso faccio col Vaticano, gli sequestrano le case e risarciscono le vittime. I bla bla di Bergoglio non servono un cazzo, la pedofilia continua esondante a essere praticata. Vivo in appartamenti di lusso di 400-500 metri quadrati, parlo degli ultimi, si lavano la bocca, non sanno neanche chi siano. Lei deve essere i primi però scusami Marco, niente. Loro hanno tradito il Vangelo. Marco, il respiri, Marco, tiri il fiato un attimo. È antico e moderno. La parola di Dio è eterna e non cambia mai. Respira. Le tue riforme della Chiesa del cazzo, devi andare via. Tu non sei un cristiano, tu sei un negatore della fede. Hanno svelto i cristiani e tu non li ricordi neanche. Calma, giù un attimo. Allora, Marco da Modena, è una specie di predicatore, eccetera, che consiglia sostanzialmente, considera sostanzialmente Bergoglio un delinquente, giusto Marco? Sì, bene, ottimo. Se ne deve andare. Scusi, è un papa. Scusi, è un papa, non se ne deve andare. Bianco, negro che sia. Bloccalo un attimo. Signore, signore, è un papa, non se ne può andare, come dice lei. È un papa. Papa di che cosa? Papa di chi? Ma scusi, Marco, fermo un attimo. Ma parli di che cosa? Ma la vostra è pazza. Sono uguali. Lui teorizza una religione umanitaria, Marco, che è una bestemmia, è una follia, negando le relazioni divine. Aspetta, Bergoglio è un traditore, è un massone, è un eretico. È impossibile. Giù un attimo, state zitti. Allora, lui dice: ma devi stare zitto, vai giù. Allora, fammelo dire a me. Allora, Marco, non ho capito. Allora, tu consideri Bergoglio una specie di delinquente? No, Bergoglio è un usurpatore della fede, è un traditore della chiesa a Pietro di Giona, figlio di Giona. Non esiste una verità rivelata che non cambia, non viene riformata in modo progressista. La parola di Dio è eterna. Non è né antica né moderna, né progressista né conservatrice. È inutile parlare di chiesa o concetta. Sembra Meluzzi un genio. Tommaso da Firenze, avanti tutta, ragazzi, qui c'è posto per tutti, vai Tommaso. Dopo il demone, ragazzi, dovete stare calmi però. La trasmissione la conduco io. Devi stare zitto. Cazzo, Tommaso da Firenze, forza. Marco continua così, gli prende un infarto e di questo tempo gli va anche ma male. Ma comando io qui, mica c'è l'anarchia, forza Tommaso, dimmi. Beppe, se Marco continua così gli prende un coccolone. E di questi tempi gli va anche male, che con le ambulanze è un casino. Lo so, dimmi con Tommaso, quel coglione. Dimmi. Senti, io sono qui a farmi un cannone col mio amico Lorenzo. Sì. E volevamo dirvi che praticamente l'erba potrebbe dare una grossa mano con questa cazzo di Covid e questa follia che c'è in giro. Qualcuno dice di sì, qualcuno dice che addirittura fumare fa bene contro il Covid. Fumare fa benissimo. Lo sostengono alcuni grandi legalizzatori, però questo non credo, come dice. Tu stai compiendo un reato con il tuo amico. Sei eccessivamente stupefacente. Allora, i carabinieri dovrebbero venire ad arrestarti. Ma non dire puttanate, dai. Che cazzo ci fai in giro alle 7:30 in una regione arancione? Noi siamo a casa. Io spero che il tuo amico lo fermino i carabinieri. Positivo alle sostanze stupefacenti sopra la patente. Allora, devono pisciare sopra la patente del tuo amico drogato come te. Perché questo si droga? Perché torna a casa in macchina questo delinquente? Ma secondo te io dopo 8 ore di lavoro mi faccio una cannetta, voglio parlare un attimo con Beppe e David e Gottardo mi deve rompere i coglioni se lei si mette in macchina con la dopo aver fumato è troppo pericoloso. No, io sono a casa sul divano. Ma anche se uno si è fatto una cannetta non può andare in macchina, ragazzi. Non può guidare. Teoricamente sto facendo una cannetta, ragazzi. Non sono in macchina. È come aver bevuto tanto vino, capito? È pericoloso. Scusami un attimo. Primo è sul divano. Secondo, una cosa. Anche un amico è arrivato. Ragazzi, posso parlare oppure non mi permettete di parlare questa sera? Allora, state zitti a Padova e a Roma. Non mi rompete i coglioni. È chiaro? Allora, Tommaso, non ha detto che sta guidando. Due, anche se fosse fatto una canna. E poi si fosse messo alla guida, non è che una canna ti impedì, ma non dire una canna, dipende che tipo di canna è, quante quantità di cannabinoidi c'è dentro. Non dire cazzo, se ti sei fatto una birra, puoi andare tranquillamente. Se ti sei fatto mezza canna, puoi andare tranquillamente. Una canna non è una birra, ma chi te l'ha detto? Dipende quante ne fumi, rincoglionito. Dipende quante ne fumi, fanculo veramente. A te ti fa male, ma sai quanta gente ammazza la gente per strada come te? La gente si fa Allora, Gottardo, stai dicendo una grande cazzata. Sì, dipende, qual è la grande cazzata? Dipende quante canne ti fai, rincoglionito. Non è vero. È una cazzata. Ma guardatevi le tabelle. Ma non mi fumo il crack. E comunque volevo dirvi una cosa prima di canna, non dire cazzate. Dimmi, in questi Tommaso, giorni dimmi. C'è un bellissimo appello su internet per la legalizzazione. È semplicemente una raccolta firme con un paio di partner importanti che sono. Mettersi in macchina dopo quello c'è. Come la vendi.it. Ma ragazzi, ma dipende quante ne hai fumata. Dipende dal fisico che uno ha su una persona, una canna. Ma se uno tira, se uno in un giro di 3 persone si fa un giro di canna e va in macchina. Ma io sono favorevolissimo alla legalizzazione, come noto. Non metti in pericolo nessuno, dico semplicemente non diciamo che se uno dipende dal fisico che tu hai, ma se nemmeno. Tu ad esempio su alcune persone se ti sei fatto una birra, sei legale, potresti essere super il tuo sangue, quasi ti fanno la prova, potresti anche risultare positivo. Certo. Io non ho detto che non succede nulla se ti riempi di canne e sei completamente sballato, è evidente che è così. Ma se ti fai mezza canna insieme ad altre persone, vai in macchina, non ti succede un cazzo. Ma non dire. Se ti fermano, dipende. Anche se sei nervoso, anche se sei nervoso, dipende, in macchina. Dai, dipende. Fermo là, fermo. La zanzara. Cruciani, il tuo alfiere del sovranismo è caduto, il carissimo Trump è andato cotto e oltretutto con una figura pietosa, pietosa, veramente. Cruciani, mandalo sto messaggio, va. E adesso tocca agli altri, Cruciani, tocca agli altri e tu sei uno di loro. Io la sette non la guardo mai, un covo di estremisti di sinistra. Spadalino, spadalino. Non mi piace la sette. Ottimo. Lo confesso. Ottimo, ottimo. Siamo ottimo. In democrazia. Certo. Non commetto alcun reato. C'è Joe Biden. No, Joe Biden, comunque. Quasi ottantenne, sì. Su una sedia a rotelle. Beh, insomma, e viene guidato dal suo vice, una certa Kamala, una che ve la raccomando, la Vispa Teresa. Sarà lei a prendere le redini. Sì, lui forse, è una marionetta. Ma di chi? Joe Biden. Ve lo dice Enzo Spatalino. Ma allora, infatti, la garanzia, il certificato. Mi daranno ragione per l'ennesima volta. Ragazzi, è una roba incredibile. Spot incredibile, incredibile. Non si poteva fare. Sai chi è la fonte di Spatalino sulle elezioni americane? Chi è? Mauro da Mantova. Mauro da Mantova, chiaramente. Allora, ragazzi, io proverei però a risentire il tizio sindacalista di polizia. Richiamatemelo un attimo, intanto, mentre chiamo un ascoltatore, perché lo voglio sentire per telefono assolutamente. Signor Tiani, signor Tiani, stupendo. Signor Tiani, Riccardo da Livorno, vai, Riccardo da Livorno, vai. No, ti volevo dire, ci hanno parlato per 7-8 mesi per questa cazzo d'ondata. Ragazzi, piccola parentesi, non è che volevo dire che si deve guidare con le canne, Sto dicendo che un tiro di canna, vorrei vedere. È evidente, un tiro di canna, sto parlando di sembrava, un tiro di canna, diversamente. Un tiro di canna può rimanere per diversi giorni, ma non è che un tiro di canna ti rende inabile alla guida. No, però su cioè non è che se tu fai un tiro di canna e ti sballa, ragazzi, su alcune diciamo persone può far sballare, come ad esempio un tiro su di canna non credo, dai, su. Ma io nel dubbio non lo farei. Ma te lo dice uno che si è fatto delle canne da ragazzo. Ma io non sto dicendo, ragazzi, io non mi sono mai ubriacato e non mi sono mai fatto le canne, cioè, non ho mai guidato né stato di ebbrezza. E mettersi in macchina è molto pericoloso. No, ma certo, ma non c'è dubbio su questo. Sto dicendo che un tiro di canna non è che ti altera. Dai, forza. Dipende invece. Un tiro detto. Dipende dal fisico, dalla reazione, del corpo. Fammi sentire. Il ciondolo, ragazzi. I cationi. Il ciondolo, i cationi. Vodafone servizio di segreto. Allora, Riccardo da Livorno, vai. Dimmi, ciao. Riccardo. Niente, ti volevo dire, ci hanno parlato di questa seconda cazzo d'ondata. Sì. Per 7-8 mesi. Sì. Cosa hanno fatto? Un cazzo. Invece di potenziare l'ospedale, le terapie intensive, il personale, il posti letto, ci hanno dato il bonus vacanze, bonus computer e bonus monopattino. Ma digli all'apparenza perché sono hanno scritto libri no, a tonnellate. Hanno aperto le scuole bonus in sicurezza. Computer. Chiamano computer è utilissimo per lo smart working. Ma la zolina non sa che le scuole sono chiuse. Ragazzi, Riccardo ha perfettamente ragione. Che fai di mestiere? Che fai di mestiere, Riccardo? Io faccio il rappresentante e consulenza nel vino. 4 aziende su 10 chiudano. Non c'è dubbio. Ragazzi, però qui andiamo. Ma la colpa ai giovani. Ma che giovani? Quando invece qui, davanti all'Eurospin, è pieno d'anziani. Cioè, il problema fondamentale è quello che hai detto all'inizio, Riccardo. C'era tutto il tempo possibile per organizzare qualche cosa, solo certo. Che in Italia è impossibile organizzare qualsiasi cosa. Ma avete visto che funzionari abbiamo in Calabria, adesso quest'altro qua del ciondolo. Abbiamo dei personaggi della burocrazia che sono penosi. Non è possibile organizzare una fava. Dunque, arriviamo. Quest'estate dicevo occhio alle discoteche. Ma ora che salta c'entra fuori le discoteche? E voi eravate a difendere anche le discoteche. Ma certo, ma non c'è dubbio. Che dicevo in diretta. Ma guarda che sarebbe ricominciato lo stesso. Sarebbe ora ricominciato salta lo stesso, fuori che magari. C'è l'inchiesta giudiziaria sulla Sardegna e sulle discoteche, ad esempio. E il tuo amico Briatore non gliel'hai chiesto. Eppure risultano pressioni di uomini, di proprietari di discoteche, non Briatore probabilmente, ovviamente, ma di pressione di proprietari di discoteche per far verso politici. Perché avevano dei contratti. Verso politici. Leonard Muti, Verona. Voi Leonard Muti, Verona. E mi attaccavate quando dicevo il problema c'era lì. Leonard Verona, vai, dimmi Leonard. Dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto, buonasera. Dimmi, buonasera. Dai. Allora, a parte tutte le cazzate lì del cane, non sento niente. Parlo non del sento niente, cane. Amico mio, però ti devi mettere bene col telefono, che non sento una mazza, senti? Dai, forza. Senti? Sì, poco, sento distante, sento col viva voce, con l'auricolare, sì, dai. Viva voce, allora ma vai a fare in culo, no, scusami Leonardo. Allora, puoi mettere giù, scusa. Ma no, ma ho capito, ma perché devi chiamare con la viva voce quando sai benissimo perché che non si può... E chi se ne frega, dai. Poveretto in macchina. Però me ne fotto, dai. Allora, a parte quelle cose lì delle canne, tanto, nessuno ha parlato dei padri separati in questo momento qua. Padri separati, amico, siamo tutti padri separati qui, cioè siamo tutti quanti, siamo una grande congrega. Cioè, siamo una e qual è il problema dei padri separati? Spiegami. Qual è il problema? Non è... Allora, io sono sempre tornato dall'estero, ho perso anche mio padre per il Covid a marzo, sì. Mia madre anche. Sì, sì. E... ho lottato tutta una vita per avere mio figlio. Ma no, pratica... E adesso? No, mio figlio sì, adesso non lo vedo quando ha voglia sua madre e tant'altro. Vabbè, quelle sono affari vostri però, no, non c'entrano niente allora, col Covid. Voglio dire una cosa, mi voglio esporre. Questo papa qua, cos'è? Il papa, che c'entra il papa? Prete di campagna? Cioè, non capisco. No, che c'entra il papa con i padri separati? Padre... Allora, esatto, perché passare di tutto argomento... tranne di cose... Di cose del genere. Ma che c'entra il Papa? Che già non dovrebbero esistere i padri separati per il Papa perché è contro il divorzio. Scusa, cosa c'entra? Cioè, scusami Leonardo, cazzo c'entra adesso il Papa? No, che io non amo. Io non amo il Papa. Però, ragazzi, cosa c'entra il Papa con i padri separati? Nulla. Anche lui, due parole. No, allora, due parole. Chi se ne frega? Ma che te ne frega di due parole del Papa sui padri separati? Io mi dispiace che tu non puoi più vedere tuo figlio per il Covid. Adesso io non so dove abita tuo figlio, caro Leonardo. Abita in provincia di Sì, mi raccomando i magistrati. Ma ho capito, ma che vuoi? Ma allora capito, ma cosa c'entra il Covid? Spiegami. Nulla. Allora, come nulla? Intanto, scusa, tu parli a volte a Vanvera, porta pazienza, stimo tutti quanti, lì parlate a Vanvera. Ha modificato il tutto, anche sta qua. Quella scusa, allora non si può dire, ma tu hai contatto, insomma, tutte scuse. A me dispiace che tu non puoi vedere tuo figlio perché tua moglie ti mette i bastoni tra le ruote, perché ti rompi i coglioni, certo, o perché i giudici non so che cosa. Niente. Per carità, Leona, mi dispiace. Ma sicuramente il Covid peggiora la situazione. Primo, il Papa non c'entra un cazzo. Secondo, è un problema che prescinde dal Covid. Ciao Leona, okay, ti saluto. Ma ciao, una parola, ciao. La spesa. Ma chi se ne frega della parola del Papa? Ma parlate di cose serie. Questa qua sarebbe una cosa seria. Ma anche se la spende, cosa succede? Succede niente. Onorevole Sgarbi deve uscire dall'aula. Sospendo per 5 minuti la seduta. La zanzara. The sweeter the touch, yeah. The colder her hand. Another thing that I want the most. Just broke my heart again. Pronto? Allora abbiamo un grande ritorno, Alessandro Meluzzi, buonasera. Come stai Alessandro innanzitutto? Come stai? Bene, grazie a Dio, la salute è buona. Mi sembra che tu sei molto pessimista, pensi che ci sarà un lockdown, hai detto lockdown nazionale ormai deciso, ne sono felice. Ma che ovviamente... sicuramente, ne sono anche felice perché così preverremo molte cose negative, preverremo dei contagi, preverremo delle fatiche dei medici, preverremo troppa anidride carbonica nell'atmosfera. Sì, sì. Insomma, ci saranno una serie di cose positive. Ma lo dici in modo ironico, naturalmente, che tu sei ma fino a un certo punto, perché poi accetto anche l'ineluttabilità delle cose nella vita. Sì, ho capito, però tu, insomma, sei stato, almeno negli ultimi mesi, sempre contrario a questo tipo di disposizioni, pensi addirittura. Ma ormai è una battaglia dopo la sconfitta di Trump, ormai è una battaglia senza speranza. Cioè, tu pensi che Trump sia stato derubato, tanto per essere chiari? Non lo so, lo vedranno. No, ma secondo te vedrà la Corte Suprema degli Stati Uniti. Senti odore di brogli, però, da quello che. No, ma non solo io, credo. Sì, ma con Biden chi ha vinto? Uno che tu chiami facente parte di quella famosa setta satanista, eccetera, eccetera. No, Biden, un vecchio arnese della politica americana che fa il senatore Dem da una cinquantina d'anni. E credo che sia stato messo lì perché la vera presidente degli Stati Uniti sarà la vera presidente. Cioè, questa Kamala. Esatto, sì. Che è il vero elemento rampante, quindi credo che lui sia stato messo lì come un feticcio. Ah, addirittura un burattino, un feticcio. Sì, un feticcio. Sostanzialmente sì. Però voglio dirti, questa cosa del vaccino che è uscita fuori, secondo te è casuale che sia uscita fuori poco dopo la programmazione? Per fare un vaccino ci vogliono molti mesi, anni. Io dubito, come dire, che questa notizia non ci fosse già 15 giorni fa. E credo che giustamente la Pfizer, che è un'azienda democratica, che ha come due soci di maggioranza due turchi, abbia aspettato che un sincero democratico vincesse le elezioni degli Stati Uniti per poter dare un altro colpo all'aumento della borsa. Quindi mi pare che sia un'operazione legittima. Cioè, ma un'operazione fatta apposta per non avvantaggiare un'operazione Trump? Un'operazione propagandistica, come ce ne sono tante, tra politica. Cioè, tu non ci credi nemmeno per un secondo al fatto che questo vaccino che oggi, di cui parlano gli ultimi due giorni tutti, che sembra la grande speranza, possa salvare la vita di ciascuno di noi? Ma questo non lo so, può anche dare. Cioè, voglio dire, cioè tu non lo farai comunque, non lo farai. Ma io non lo so. Allora, vi dico una cosa. Allora. Io credo che ci siano diversi vaccini in cantiere. Ce n'è un altro per il quale io tifo di più, che è quello dell'AstraZeneca, che è quella che in parte, lo dico perché sono un sovranista, quindi siccome ce n'è una parte fatta in Italia, Pomezia, sono più contento che i soldini dei contribuenti vengano spesi per un'azienda che ha forti radici italiane, perché l'AstraZeneca è investito qui. E quindi dico, può darsi che... Però questi vaccini RNA, vedete, sono come tutti i vaccini RNA. Non possono dare una copertura assoluta, perché i virus RNA, che sono per quelli del raffreddore, ma anche quella dell'HIV, cambiano continuamente. Quindi daranno una stimolata soprattutto all'immunità cellulare, più che alla creazione di anticorpi. E quindi può darsi che diano una modesta copertura, diciamo tra il 60 e il 70%. Però non pensi che sia la soluzione? Non pensi che sia la soluzione? Ma non può essere la soluzione, ma ovviamente. Ma questo lo dicono anche i più raffinati virologi. Però scusami, Alessandro, tu pensi seriamente che ci sia, adesso non nascondiamoci delle cose, una specie di nuovo ordine mondiale, una specie di regime? Questo non lo dico io, l'ha detto persino Trump, è sotto gli occhi di tutti. Cioè, questo nuovo ordine mondiale da chi è rappresentato? Che cosa fa? Cioè, come sta orientando questa malattia? In che cosa ci sta controllando? Cioè, la polizia che entra dentro in casa di una signora? Il nuovo ordine mondiale ha alcune cose che deve realizzare. Una, intanto, la più semplice di tutte, è quella di confermare un equilibrio geopolitico già deciso. Cioè, le cose si fanno in Cina, l'accumulazione viene trasferita nel mondo del big state americano, l'Europa è... in parte con la Germania un residuo di produzione industriale, l'Italia è una piattaforma della migrazione afro-islamica insieme alla Spagna, la Francia è un po' a cavallo tra le due cose, l'Europa d'altra parte è un continente invecchiato con scarsa crescita demografica e quindi deve essere invasa da africani e da magrebini fondamentalmente. La Cina si è comprata tutto quello che c'era da comprare in Europa e finirà di farlo. Finito. Bisogna eliminare tutti i ceti medi, bisogna che il ristoratore dell'angolo venga sostituito da una grande catena, bisogna che il sarto dell'angolo venga sostituito da una grande catena. Ah, questo qui c'è un grande disegno. Il ceto medio. Questo è un grande disegno. Un grande disegno sociologico. Cioè, dietro c'è Bill Gates, i Rothschild, questa famiglia. Ci saranno i grandi capitalisti, saranno quelli che decidono la storia. D'altra parte, ho scoperto proprio in questi giorni che Rothschild era parente di Carlo Marx, quindi evidentemente i disegni della storia sono molto intricati e complessi. No, però scusami, ci sono almeno, si può dire che ci sono 10, 12, 15 grandi famiglie che controllano l'economia mondiale. Lo dico io, ma dai, non fatelo dire a me che sono nessuno, lo dicono grandi osservatori dell'economia. Ci sono 10 grandi famiglie che fanno la storia del pianeta, ma è logico che stanno orientando anche questa storia del Covid, cioè la stanno manipolando, la stanno utilizzando. Ma la storia del Covid è partita da Wuhan, è partita dalla Cina. In Cina il problema non c'è più, il che fa pensare che evidentemente se non è stato un incidente, è stato qualcosa che ha avuto a che vedere con degli interessi che la Cina sta cavalcando, che ha un tasso di crescita oramai del 10%. Ho capito, ma il lockdown anno. Nazionale che ci aspetta adesso fa parte di questo disegno, ormai ci dobbiamo rassegnare al fatto che noi... Ma cioè, bisogna assolutamente rassegnare. Perché non ci impoveriremo, qualcuno ci vuole impoverire, perché qualcuno ci vuole impoverire, questo è il punto. Ma bisognerà farlo, per forza, cioè i ceti medi devono essere cancellati. Ma stai dicendo ceti una cosa medi, gravissima, sì. Che c'è qualcuno che vuole cancellare i ceti medi in Italia attraverso ma il... Ma c'è una logica in questo, scusate. C'è una logica, certo. Ma se io devo... Se io devo indirizzare l'economia in una certa direzione e devo centralizzare, come dire, il prodotto in un certo modo, devo gestire la finanza in un certo modo, devo gestire il credito in un certo modo, è normale che chiunque abbia un'autonomia economica come ristoratore dell'angolo è un nemico di classe. Sono come i culacchi la NEP al tempo di Stalin, quindi come si assistette nel 1928. Ma per cui il governo italiano è un governo fantoccio, dobbiamo assistere alla cancellazione dei ceti medi europei, soprattutto di quelli italiani. Ma questo è gravissimo. Parenzo, come rispondi a questa cosa? Ma stavo provando a prendere appunti, ma è un delirio, non si sa neanche da dove cominciare a sto delirio, poveretto. Comunque, parto dalla fine. Biden da 50 anni nel Partito Democratico, sì, perché lui non è un pirla che ha cambiato partito nel corso di 20 anni, come hai fatto tu, che sei passato dalla sinistra al sovranismo in 20 anni. Giù Roma. Allora, non sono più presente se tu vieni. Scusa, Meluzzi, no, aspetta un attimo. Io voglio capire una cosa, le lobby farmaceutiche del farmaco, eccetera, quanto governano questa situazione? Lobby del farmaco fanno il loro mestiere, ci mancherebbe altro, fanno anche cose ottime. L'AstraZeneca fa anche degli straordinari farmaci contro il cancro, quindi nessuno dice. Beh, la Pfizer fa il Viagra, che è un grande farmaco. La Big Pharma fa il suo mestiere, cosa c'entra? Ma c'è qualcuno che lavora per loro, però? Secondo te, attivamente? Ma tutti lavorano per qualcuno, ma insomma, non siamo mica nati ieri. So, Parenzo, per esempio, è al soldo di qualcuno. Non so neanche chi sia, poverino. Parenzo è un povero ragazzo che deve guadagnarsi da vivere per lui e per la sua famiglia. Ma che cazzo sei tu? Ma che guadagnarmi da vivere? Tu ti devi guadagnare da vivere. Che sei passato dall'extra parlamentare ai sovranisti. Guarda te. Federico da Foggia, ma vai. Guarda te, se mi devo far dare da questo qua che è passato dal Partito Comunista Italiano nel corso di vent'anni li ha passati tutti i partiti, è arrivato al sovranismo dal Partito Comunista Italiano. I socialisti, farmi dare lezioni da questo minchione qua, ma di che stiamo parlando? Federico da Foggia, ma di vai. Che stiamo parlando? Tu lo facevi parlare senza metterlo in contraddizione, la Cina, Bill Gates, Rothschild, un delirio senza dirgli un cazzo a questo delirio qua. Calma, ma un delirio di Parenzo, ma sì, ma un delirio. Giuseppe, qui mi devi spiegare una roba, ma perché Gottardo continua ad affermare, fa affermazioni ridicole dicendo che la canapa, che fumarsi una canna è pericoloso, che fumarsi una canna, andare in giro fatti per una canna è pericoloso. Dire che fumarsi una canna è pericoloso. No, Federico, certo, se ti metti alla guida di un autobus, o di una macchina e sei alterato, sia attraverso una canna o sia attraverso l'alcol, comunque è pericoloso. Ma l'alcol è una droga molto più pericolosa. Ma lascia perdere, non è una droga. Ed è legale, tantissime altre che sono legali e sono acquistabili in farmacia. Non è una droga, Federico, stiamo parlando di un'altra cosa. Qui non stiamo facendo il paragone solito tra l'alcol, le canne, le droghe leggere. Noi stiamo dicendo una cosa: se uno è alterato in qualsiasi modo lo sia, sia attraverso la cannabis o attraverso la droga, è chiaro che è un pericolo quando si mette alla guida di un autobus. Ma non deve passare il messaggio che è, secondo me, vergognoso nel 2020 che fumarsi una canna sia pericoloso. Ma no, certo che non lo è. In maniera abituale è sicuramente pericoloso, perché da dipendenza. siamo arrivati stai mettendo sembri Giovannardi e Fini, che qualche anno fa, non mi ricordo in che anno, qualche anno fa volevano paragonare le droghe pesanti alle droghe leggere. Non è del tutto sbagliata come impostazione. Tu quante canne di fumo, Federico? Io fumo semestralmente, fumo una cannetta ogni tanto con gli... te lo giuro, è tantissimo tempo. Fermi tutti. La zanzara. Stronzi, figli di puttana, mi avete tolto il sonno, è una settimana che non dormo. Adesso richiamate Monica d'Alessandria e mi fate sapere che cazzo aveva da dire, bastardi, pezzi di merda. Allora ragazzi, in collegamento da non so dove, credo dagli Stati Uniti, abbiamo un protagonista della storia televisiva degli ultimi mesi, diciamo, no? E sicuramente voi lo conoscete, perché prima era esaltato da tutti come una specie di guru di Instagram per aver fatto la fortuna di molte persone, poi all'improvviso, dopo un terzo servizio delle Iene, è sprofondato negli attacchi, addirittura lo minacciano di morte, ha una vicenda legale in corso con le Iene per alcune cose che sono state dette in quel servizio lunghissimo. Lui si chiama Mirko Scarcella, eccoci qui, come stai? Bene, grazie, voi? Bene. Ce la caviamo, dai. Io ce la lo caviamo. Vedo sempre da Giletti, quindi seguo tutte Giletti, le sue. Ma Giletti, una volta sarei stato da Giletti. Quanto è stato? Quante volte sei stato da Giletti, Mirko? Lo seguo sempre lì, io. Sono andato un paio di volte del servizio, sì, del una soap opera, soap opera straordinaria. Allora, io voglio dire una cosa a Mirko Scarcella, perché le ultime notizie ci dicono di un filmato lunghissimo di 3 ore, caro David, che ha prodotto tipo Ben Hur. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Ma cos'è, Jurassic Park? Che cazzo è? Che lui ha prodotto, diciamo, per dire la sua verità. Un film di questo prodotto si parla, no? Di 3 ore. Ma no, un film, una sua testimonianza di 3 ore su tutto quello che è la vicenda delle Iene. Ma neanche Altman fa film di 3 ore, neanche Quentin Tarantino. Allora, rispondi velocemente a Parenzo, caro Mirko, perché ha voluto fare una cosa così lunga di 3 ore? Che ma effettivamente Tarantino, fa un po' Parenzo. No, capisco l'ironia, eccetera, è vero, però pensa che ho cercato di riassumere, sarebbe durato molto di più se non avessi tolto tanto materiale che farò vedere alle autorità competenti. Però. Addirittura hai del materiale da far vedere alle autorità competenti. Cioè, non c'è stato tutto. No, addirittura non tu, cioè poteva essere più lungo. Ma che cos'è The Young Pope? Fammi capire, che cos'è The Young Pope? È la sua storia, la sua risposta agli attacchi delle Iene. Ma chi se ne frega con tutto rispetto della sua storia, però chi se ne frega? Praticamente mi è stata fatta una campagna di diffamazione, perché io facevo e faccio una professione che è sul web, no? Lavoriamo con persone, lavoriamo e ti hanno completamente sputtanato, diciamo. Sputtanato fondamentalmente dicendone la qualunque, cioè dicendo che sei sostanzialmente uno che si inventa i follower, eccetera eccetera, dai. Corretto, che io mettevo appunto follower indiani ai miei clienti, che non sapevo fare nulla, che facessi anche a livello personale, che facessi finta nella mia vita di farmi una foto in un aereo, piuttosto che, cioè, hanno cercato di demolirmi arrivando anche... Ma chi è che ti sta minacciando di morte, per esempio? Chi è che adesso ti minaccia di morte, scusa? Puntando alla pancia dei telespettatori. Chi mi ha minacciato di morte in questi mesi, da quando il 16 giugno loro hanno mandato in onda questi servizi, sono gente che, a loro dire, sono collegati alla mafia. Alla mafia, addirittura, alla mafia. E perché ti dovrebbe minacciare la mafia? Noi abbiamo fatto delle denunce, perché dal servizio delle Iene, che è stato mandato in onda, abbiamo ricevuto estorsioni da persone che si dicono collegate alla mafia essere degli uomini d'onore. Ma perché un signore come questo sarebbe scomodo alla mafia? Io non riesco a capire. Ma lasciamo perdere questo argomento. Però partiamo da un punto, Mirko. Il video che tu hai fatto in questi giorni qualche giorno fa, è stato improvvisamente oggi tolto. Io non ho visto un pezzetto, poi volevo vederlo tutto, no? Insomma, tre una parte. C'è un cazzo a fare tutto il giorno. No, è stato tolto. Chi è che l'ha fatto togliere questo video? Allora, un video in particolare, che è quello su Vimeo, è stato fatto togliere da Mediaset per problemi di copyright. Di diritti, di conseguenza pezzi, non è più, esatto, quindi non è più raggiungibile là. Mi domando come gli avvocati di Mediaset, abbia la velocità di far togliere un video così velocemente, fammi finire che ti voglio dire il concetto, quando un video come quello di Tiziana Cantone che si è suicidata, Belen Rodriguez, che tuttora sono su siti porno, nessuno è riuscito a farli adesso togliere. Adesso se c'erano le prove, però, scusami. Il mio video in 24 ore è stato fatto però, togliere. Scusami, Tiziana Cantone che è suicidata per dei video che giravano online e che nessuno riusciva a far togliere. Amico mio, però, Belen se Rodriguez ha vissuto, come benissimo, ha detto lei, momenti drammatici per questo. Però scusami, se c'erano dei problemi relativi, non lo so, al copyright o delle cose che hai detto, gli avvocati ci sono per questo, agiscono, lo fanno togliere. Adesso che siano stati veloci, meglio così. C'è la legge che interviene. Tu fai i tuoi ricorsi, poi li potrai ripubblicare, eccetera, eccetera. Adesso qui non stiamo analizzando il conflitto tuo con Media. La differenza è che i miei video sputtananti, perché voi due non siete al corrente bene della situazione, avete delle giornate impegnate, quindi io non sono la vostra priorità, però, scusami, però, ma vi posso assicurare che il mio video, dove io vengo diffamato dalle iene, bugie, cose che ho capito, io, però questo lo dici tu, secondo loro non è così. Io l'ho dimostrato su cose che io ho dimostrato non essere vere quelle che hanno detto le iene, è tuttora sul sito. Però scusami un attimo, quello è un contenzioso legale tra te e le iene, che vedremo come andrà. Le iene dicono che è tutto vero, tu dici che è falso, vediamo chi ha ragione, lo vedremo. Dunque, non io è ho che... mostrato le prove per far vedere che era capito, falso. Ma le prove sono le tue, non è che le prove sono le, cioè, sono accertate da un le giudice terzo. Le prove sono quelle che sono state sottoposte alle autorità giudiziarie. Vabbè, comunque andiamo su un'altra cosa, andiamo sulla vicenda Vacchi, perché la vicenda di Gianluca Vacchi è particolare. Tu sei stato un collaboratore e lui poi dice in realtà che sei stato praticamente un portaborse, cioè non contavi assolutamente nulla, e tu in questo video vuoi mettere le cose a posto, naturalmente, no? O sbaglio? Allora, io per anni, quando mi chiedevano come mai è finito il tuo rapporto con Vacchi, ho sempre detto che non volevo parlare di questo argomento. Ho sempre detto così, quando però mi vedo questa persona che sfrutta l'occasione di persone che mi stanno diffamando dicendo delle bugie, e va anche lui in televisione sfruttando quella, dicendo che sei un portaborse, dicendo che io ero il suo portaborse, che non sono, che il mio ruolo appunto era quello, e quindi vuole distruggere la mia carriera, perché una persona così potente, allora, a quel in punto... Italia, è così famosa, che va in televisione contro un ragazzo di 33 anni dicendo una roba del genere, che ha lavorato 4 anni e mezzo, e allora con a quel te, punto hai deciso, rovini la reputazione. A quel punto hai deciso e di parlare. E in più va a dire, attenzione, che lui ha voluto finire il rapporto con me perché lui, sai, lui è una persona per bene, io no. Sì. E io allora cosa ho detto? Gianluca Vacchi, tu vai a dire in TV che io ero il tuo portavoce quando io non ho mai voluto parlare di te, e che io sono una persona che appunto tu ti sei voluto distaccare. Io mostro a tutti che non è la verità, né che ero io il portavoce e né che tu sei una persona che... Dunque tu che hai creato l'immagine Instagram di Vacchi, cioè sei stato tu quello che stava dietro tutto, tu questo lo vuoi riconfermare? Assolutamente sì. Dunque non eri un portaborsa, come diceva. Assolutamente sì. Benissimo, però ma ci sono... Ma il video è evidente, il problema sai qual è? Dimmi. Sai qual è? Che se io non mostravo le prove, ragazzi, nessuno mi avrebbe creduto. Però Scarcella, allora, c'è un'altra di cosa, però scusami Scarcella, ti devo interrompere per una cosa. Allora tu volevi ristabilire la verità sul tuo ruolo con Vacchi, e d'accordo, va bene, va benissimo. C'è Aspetta, c'è una cosa. Facendo questo, tu che cosa hai fatto? Cioè, innanzitutto la prima domanda era: c'era un patto di riservatezza tra di voi? Sì o no? Dammi una risposta veloce su questo. C'era o no un patto di riservatezza tra di voi? quando abbiamo interrotto i rapporti, deciso da me, deciso da me, con il mio legale, hanno fatto un contratto, un agreement, dove diceva che io non avrei più potuto parlare di lui, lui di me, che non potevi dire cose appunto del lavoro, eccetera. E dunque, quando lui ha parlato, quando lui ha parlato alle Iene, tu ti sei sentito autorizzato? Quando lui l'ha fatto, quando io, lui l'ha fatto dal punto di vista legale, mi sono sentito autorizzato a poterlo fare. Ho capito benissimo, però... E poi dal punto di vista umano, ho provato a dargli una seconda opportunità, perché lui ha parlato male dicendomi che era un ciarlatano già il 16 giugno e io nel mio video risposta, attenzione, ho detto: Bacchi, mi dai la possibilità di parlare anche a me? Facciamo un confronto. È andato ancora alle Iene a calcare ancora più la mano, a dire che sono il suo portavoce. Ti sei sentito libero. Una cosa però, c'è una cosa che io, ragazzi, sono contro una potenza come Mediaset. Vabbè, ma questo è contro Bacchi, che è una delle persone più ricche che ci siano in Italia. Cioè tu dici contro due potenze che sono Mediaset e Gianluca Vacchi. Non è che dico, è indubbio, no? Però a parte la mia domanda, voglio dire questa cosa da due minuti, ragazzi, voglio dirla. Ma stai dicendo tutto quello che vuoi, stai dicendo, cioè non è un problema. No, certo, voglio dirvi sta cosa da due minuti. Fatemela dire perché me la dimentico. Più altro è quello, perché anche in sto periodo c'ho mille cose in testa. Ma dove stai adesso? Quindi... In America? Dove stai? In Nicaragua? Sono negli Stati Uniti, certo, con la mia famiglia. Negli Stati Uniti. In Italia non puoi tornare, non tornerai più in Italia. Perché non puoi tornare? Speriamo che si possa tornare, così torniamo quanto prima, perché vorremmo stare un po' anche con la mia famiglia, visto che c'è mia madre che non la vediamo dal lockdown di marzo, quindi spero che Però scusami, ti voglio dire una cosa, perché hai fatto quelle accuse a Bacchi prendendo delle testimonianze, cioè tentativi di rapporti sessuali con una minorenne, eccetera. Io ti dico com'è questa cosa. Se io non avessi avuto le prove per far vedere lui che persona è realmente, nessuno mi avrebbe creduto. Quindi quelle non sono prove, sono le tue prove. Aspetta, prima ti sto dicendo delle prove e poi arrivo a questo. Se non avessi avuto le prove di messaggi che faceva vedere che io non ero il suo portaborse, nessuno ci avrebbe creduto e la mia reputazione, il mio lavoro sarebbe terminato. Ed è una cosa gravissima che tu fai terminare un rapporto, un lavoro a una persona che sta facendo da anni con passione e dedizione, perché tu, che non hai bisogno di lavorare, hai messo in mezzo altre cose, le altre cose che ho messo in mezzo sono una telefonata con un ex collaboratore che ha spiegato i motivi perché lui ha voluto interrompere i rapporti professionali con Bacchi. L'altra persona è una persona che lavorava con lui e spiega il motivo per cui è scappata da una casa quando lavorava con lui, perché... E là lo spiega cosa gli veniva fatto alla moglie. Ho capito, ma c'è un'accusa, c'è un'accusa di essere andato con una ragazza minorenne, capito? Questo è gravissimo, come si fa a dire una cosa del genere? Bacchi l'ha capito? No, ma io non so che cosa ha capito Vacchi. Io so semplicemente che tu hai detto, volendo attaccare Vacchi per motivi vostri, diciamo di cose che lui non ti ha, del ruolo io che lui non ti ha. Io non ho voluto attaccare Vacchi. Ho mostrato a tutti chi era Vacchi, quello che è andato in TV a dire che sono io la persona brutta. Cioè, tu mi stai dicendo, secondo te lui è uno che è andato con minorenni? Diciamola chiara: è andato con minorenni, sì o no? Secondo te? Come si fa? E ti assumi la responsabilità di quello che dici: è andato con minorenni, sì o no? Ma figuriamoci. Guarda, per qualsiasi cosa legata a questa vicenda, ovviamente con tutto il rispetto che posso avere, non mi metto a parlare qua di determinate cose. Ma come l'hai fatto? L'hai messo in un video? Hai messo delle testimonianze in un video? Quello che c'è nel video, lo rimarco tutto quanto. Cioè, confermi tutta questa roba quello che hai messo nel video? Testimonianze in cui Vacchi avrebbe provato con una minorenne e avrebbe picchiato un suo collaboratore. Sono testimonianze vere quelle che ho messo, non sono testimonianze finte. Vabbè, d'accordo. Sono testimonianze vere. Te ne assumi la responsabilità, in pieno. Ma non me ne assumo la responsabilità con te. Me la sono assunta nel momento in cui l'ho pubblicato. Ma no, ma te ne assumi la responsabilità. Siccome lo stai ripetendo qui, ti assumi la responsabilità di dire... Io mi assumo le responsabilità di quello che c'è nel video che io ho pubblicato. Il video si chiama Occhi Dietro e ho utilizzato questa cosa perché cazzarola, meno male che un po' sono stato un po'. Capito? Ma che bisogno c'è di riportare? Che bisogno c'è di. Scusami, Mirko, che bisogno c'è di dire per dire che vabbè, Gianluca Vacchi si è comportato male con te, eccetera, eccetera, di sostenere una cosa che non è provata, cioè il fatto di aver avuto delle rapporti sessuali, guarda, con una minorenne. Guarda, io non posso. Cioè, non sai posso, se è provata, non... se c'è stata un'accusa, c'è stata, ecco, una denuncia? Questo, c'è stata una denuncia, sì o no? Allora, su questo non posso andare oltre con te. Sai benissimo come funziona, non posso andare oltre con te. Sì, sì. Quello che ti posso dire è che lo rimarco, che io ho fatto niente po' di meno che quello che hanno fatto le Iene, solo che io l'ho fatto in maniera onesta. Ah, tu dici lo stesso metodo delle Iene, dici, prendere una testimonianza. No, però in modo onesto, perché io sono andato a chiedere: mamma, come mai hai finito il tuo rapporto con Vacchi? Questo è il motivo, bene, lo metto. Ma adesso non credo che tu il rapporto è finito perché tu sapevi di queste cose qua. Cioè No, io il mio rapporto ho finito perché mi metteva le mani addosso, come avete visto nei video che fortunatamente avevo. Ma siccome voi il video non l'avete visto perché l'ho pubblicato 3 giorni fa e ci sta che uno non abbia 3 ore in 3 giorni per vederlo, ovviamente. Va bene, ciao, è così. Ciao amico, ciao ragazzi, ciao. Chiedo scusa un momento, pubblicità. La Zanzara. Buonasera. Ciao Pingu Rusciami. Buonasera. Dimmi Giacomo, dimmi. Buonasera. Giacomo dalla Latina. Giacomo, veloce, forza. Allora, Giacomo da Latina, se non sbaglio, non chiamava da un po' di tempo, fa parte di una famiglia di due fratelli, tutte e due fascisti, o sbaglio, ah, Giacomo? Siete voi? Spiega o no? Tutto. Siamo noi. I fascisti. Giuseppe, chi è questo? Ciao, sono Roberto, il padre di Giacomo. Tu sei fascista, Roberto? E certo, mi fascisti. Perché è meglio avere un coronavirus che avere un comunista vicino. Vero. Sì o no? Vero. Coronavirus per noi che c'è, non se ne frega. Mi fa sì. Mio nonno paterno ha partecipato alla marcia su Roma. Cioè, questo propone alla Camera da segretario del sindacato di polizia il ciondolo anti-Covid che filtra l'aria. Ma ragazzi, ma c'è, cioè, questo lo manteniamo noi, ma ci rendiamo conto, ragazzi? Ma che livello siamo, ragazzi? Attenzione, novità dal caso Tiani, sindacalista di polizia che ha detto che bisognerebbe usare l'amuleto, un ciondolo anti-Covid. Che crea ossigeno, no? Che crea, sì, roba israeliana, dice lui. Senti. Intanto buongiorno a tutti, grazie per la possibilità. Intanto sì, prego. La medaglia è uno strumento di alta tecnologia. Faccio chiarezza, mi è stato riferito da ingegneri, esperti, elettrotecnici, non so la specializzazione che hanno, che lavorano in ambito sanitario, che mi hanno fornito questo strumento, è praticamente uno purificatore d'aria, il senso di intervento era quello, nell'ambito del decreto sicurezza e immigrazione, di fornire tutele al personale di polizia che è particolarmente esposto agli agenti atmosferici infettanti, dai pollini alle polveri sottili, al fumo passivo, a tutto ciò che può essere portatore, diciamo, di virus che certamente non sono il coronavirus. Non mi riferivo al coronavirus, ma come no? Il presidente della commissione a un certo punto mi ha interrotto perché il mio tempo era esaurito, quindi ho chiesto l'utilizzo della tecnologia a tutela del nostro personale nell'ambito delle tutele legali, operative e sanitarie. Il senso dell'intervento sono stati gli ingegneri a consigliarlo, Benito da Genova. Ma non possono mettergli un arbre magico come ciondolo? Ah, pazzesca, dai. venito da Genova, dai. Vediamo, approfondiamo, cerchiamo di capire. Ma non dire cazzate, dai, Davide. Magari, solo perché forse. Vediamo, cerchiamo di capire. Cioè, tu veramente stai dicendo qualcosa a favore del ciondolo. Non ho mai sentito parlare, non so che crea un metro di protezione. Ma non so a cosa serva, un metro cubo di protezione. L'ho appreso oggi vedendo questo video, ma non ho approfondito la vicenda. Ma che cazzo devi approfondire con un ciondolo che ti protegge dal coronavirus? Ma non so dove viene impiegata. Sicuramente non protegge. Sicuramente non protegge dal coronavirus. Viene da Israele. Cioè. Esatto. Siccome è forse israeliana, allora potrebbe essere buona. In genere sono molto valide quelle sperimentazioni. Benito, dimmi. Ecco Benito da Genova. Il nome non promette bene. In alcun modo, essendo nato dopo il 30, in alcun modo. Dimmi, Benito. Allora, carissimi. In che anno è nato? Giusto per inquadrare un attimo la... non promette nulla. Cioè, se fosse nato prima degli anni 20, uno potrebbe ancora dire, però essendo nato dopo, quindi non promette nulla di buono. Non è mai venuto da presentarmi così. No, Benito, però io devo sentire bene, altrimenti allora, se non sento non va bene. Fatti sentire bene questo telefono. Siccome l'idea del che per governare ci vogliono i coglioni, in Italia l'hanno interpretata male, no? Sì. Ecco. Come mai? Vecchio meme che gira su Facebook da 10 anni. Italiani fanno entrare mucchi di extracomunitari. Allora? Cosa che non è che so contrario contro gli extracomunitari, no. Però questa è un'invasione. È un'invasione, non c'è dubbio. Cosa aspettano? Che scoppia una rivoluzione. Allora non le tengono bene. Sì. Fanno stare ancora peggio di dove stavano prima, è meglio aiutarli là dove nel loro paese. Dunque, cosa ci vuole in Italia? Cosa ci vorrebbe? Innanzitutto ci vorrebbe che i tamponi le mettono in farmacia, come mai? Vabbè, questo è un altro discorso, cioè, chi ci vorrebbe al posto di Conte? A chi stai pensando, Benito? Dimmi la verità, a chi stai pensando? Ormai non penso più a nessuno. Cioè, stai pensando a Sua Eccellenza, uno che si chiama come te, un tuo omonimo. Dai, stai pensando a quello. No, non so cosa dirti, guarda, io so solo che è un manica di coglioni. Ci stanno mandando tutti in rovina. Sì, ma Sua Eccellenza, che avrebbe fatto al posto di questi qua? Al posto di Conte, Sua Eccellenza, cosa avrebbe fatto? Innanzitutto non avrebbe fatto entrare avrebbe chiuso tutti i virus. Porti e tutti gli aeroporti. Non avrebbe fatto entrare i virus, sì, certo. Tutti gli aeroporti, tutti gli aeroporti. Allora si chiude tutto. Cioè, e poi i tamponi, io me lo vado a comprare. Sua Eccellenza avrebbe fatto funzionare anche la storia dei tamponi meglio. Lo dicono loro quando che fanno il tampone. Io voglio dire, lo dicono loro se c'è il coronavirus. Questo è vero, Sua Eccellenza, come avrebbe fatto funzionare questa storia dei tamponi? Come ha fatto funzionare gli scarponi degli alpini, per esempio? Uguale, identico, bravo. Stai mangiando, il tampone, la sanità ci marcia tanto sulla salute. Sua Eccellenza, cosa avrebbe fatto di diverso, Sua Eccellenza Benito Mussolini, che si chiama come te? L'Italia agli italiani. L'Italia agli italiani. Scusami, Sua Eccellenza non ha mai detto l'Italia agli italiani, però in realtà non credo sia una frase. L'Italia agli italiani, va benissimo. Ma sì, però va benissimo, fa effetto. Mussolini, comunque. Fa effetto. L'Italia agli italiani, va bene. Che cosa vuoi dire? A chi le vuoi dare l'Italia? A chi la vuoi dare? Agli americani? No, l'Italia è degli italiani, è evidente, no? Esatto. Passiamo per coglioni, siamo la capitale del mondo, l'Italia, dove è nata la cultura di tutto. Siamo della cultura, coglioni in Europa. Davide, un tale che si chiama Davide, ci sarà una ragione. Siamo dei coglioni in Europa. Dimmi, Davide. Un tale che si chiama Davide d'Europa. Dimmi. Allora, io volevo parlare, innanzitutto volevo parlare di Biden. Non so se avete visto il video di Biden dove rivolge particolari attenzioni a delle bambine. È una cazzata quella. È una puntata, non è una cazzata, è un fake assoluto, è un fake assoluto, è un fake, cioè, cazzo, posso dirti, è un fake. Che cosa c'è di fake in quel video? C'è un video che circola, un video che circola in cui si dipinge Biden come sostanzialmente un pedofilo, ma, una puttana. È un fotomontaggio, Beppe, è un fotomontaggio. Senti, Davide, non so, vediamo. Signor Joe Biden non è un pedofilo, cioè questo lo possiamo dire con certezza. Perché lo conosci personalmente? Magari sarà un lobbista, magari sarà un corrotto, non lo so come dice la cosa, ma sicuramente non è, o comunque non è approvato, ma certo non è un quel video lì a provarlo. Ma non è un pedofilo. Non è quel video lì a provarlo, c'è delle follie, cioè nessuno potrebbe ammettere. Ma scusa, che devono, che devi far vedere un video che Biden, cioè, capisci qual è il livello nel quale siamo? Se un idiota qualunque potrebbe fare una trasmissione, dire una cosa simile. Un video che circola può provare che Biden è un pedofilo? Ma scusa, ma ci sono dei corsi che fanno. Ma lei dove si informa? Ma perché è così stupido lei? Mi fai parlare? Così stupido? Ci sono dei corsi dove perché dice delle stupidaggini. E allora? Guarda, e quel allora? Coglione se si sa quanto sei allora stupido. Il linguaggio del corpo, in base a particolari incidenti del corpo, tu puoi capire la persona che psiche ha, come oh mio come Dio, questo come è scemo proprio. Quindi mamma Biden, mia. In quel video dove si avvicina la bambina, la bacia delicatamente, mette la mano sotto il seno, io posso dire che sia un pedofilo. Che cosa c'è di strano? Ma perché sei così scemo? Perché sei così scemo? Perché? Perché? Fermi tutti. La zanzara. Non c'è tempo, devo fare presto. Vi mando questo messaggio dall'area 51 in Nevada. Sono riuscito ad entrare ed ho scoperto un segreto che cambierà la storia dell'umanità. A David Parenzo piacciono i trans, specialmente Febbal. Chiama il turco. Eccoci. Comunque sì, Giuseppe, altro che Ruggero, io mi farei romper culo dalla nobile. Che te devo dire? Comunque, piuttosto che una vita piatta da Ruggero, mi farei perforare il culo dalla signora Rubini. Confermo vostro onore. Rubini è un'altra, non è la nobile. Cioè, vabbè, Rubini è vabbè, un'altra pornoattrice. Un'antologia. Beh, è diverso, del però. È diverso. No, quella è una trans, l'altra è una prostituta che non c'è l'uccello. Scusa, è molto diverso. Scusa, se io nel dettaglio non ricordo. Beh, adesso, i nomi, però, ti voglio sottoporre un'altra questione. Un'altra questione chiedo scusa, ancora. Se messo di fronte a una scelta, Ruggero o la prostituta, la pornoattrice Rubini, quella romana. Rubini, Nuriel Rubini conosco, l'economista, non è quello. No, non c'entra niente. Sergio Rubini no, conosco, non l'attore. C'entra nulla, non c'entra Rubini, nulla. Cosa devo mettere? Porno attrice, Rubini. Ma è stata ospite l'altro giorno da noi. Ma qui. Non lo so, ma ci sono talmente tante puttane da 10 anni a questa parte: prostitute, porno star, transessuali, trisessuali, slave. Vabbè, gente che a si fa... Come faccio a ricordarmele tutte? Allora, immagini, vediamo un attimo la signora Rubini, Alessia. Ciao, Alessia Rubini, bravo. Ah, hai capito la situazione? Preferisci Alessia Rubini oppure il signor Ruggero? Adesso, in questi termini, c'hai un pregiudizio nei confronti del trans, però no, non ti piace l'attrezzo. Diciamo, mamma mia, ma quella è una terza azienda. Io sono per l'azienda tradizionale, quella che hai fatto in un certo modo. È un problema per te? No, ti dispiace? Ma assolutamente no, non è un pregiudizio, è un giudizio. Non è per è un giudizio. Io con la terza azienda non voglio avere per ora, anche in futuro, nulla a che fare. Ma non è perché non è il mio gusto, come quella a cui piace il salmone con l'avocado. A me piace, a te piace invece il sushi, benissimo, a te piace la pasta carbonara. Oh, c'è un signore che si chiama Gracis, che è uno di quelli che ha, credo, a favore della legalizzazione della droga leggera, credo che abbia anche una piccola azienda, adesso non so che cosa, sulla cannabinoidi, quelli legali, che sostiene che i Pfizer pagano i medici. Che potrebbe essere anche vero, naturalmente, che dunque dietro c'è tutta una truffa, eccetera, eccetera. Pfizer, insieme ad altre 6 aziende farmaceutiche, ha dato denaro a oltre 17.000 medici e altri operatori sanitari per parlare dei loro prodotti. Infatti è prassi consolidata da parte delle società farmaceutiche quella di pagare dei medici esperti, i grandi esperti, quelli che non bisogna mai mettere in discussione, la scienza che non è democratica, no? I virologi, che solo loro possono parlare, tutti gli altri devono stare zitti. Bene. Sì, però c'è anche da dire una cosa: a me non me ne frega un cazzo chi pagano però chi non pagano. Se trovano una roba, se trovo una roba che ci salva la vita, amico mio, viva la Pfizer tutta la vita. Che cazzo me ne frega? L'hanno già trovata? Sì, dicono di averla trovata. Viagra, sicuro. Ha salvato la vita a milioni di persone. Ma voglio, come non usatelo? Ci sono come dosi... Pornhub, come il porno. È stato studiato che durante il lockdown, e forse sì, anche adesso, salva la vita sessuale di un sacco di gente. Diciamo la verità: altro che chiesa cattolica, altro che puttanate, altro che quel signore lì vestito di bianco. Dai, Andrea, provincia di Ascoli. Andrea, provincia di Ascoli. Lavorano su due settori del corpo diversi: uno è l'anima e l'altro. Dimmi, Andrea, dimmi. Allora, io volevo parlare di una cosa, ma io voglio sapere chi è il pazzo, quella testa di cazzo che nella storia ci ha imposto la monogamia. Sì. Ma nessuno in realtà l'imposta. Purtroppo ha ragione l'ascoltatore, perché la monogamia è la una convenzione. La monogamia purtroppo è una malattia culturale che viene da lontano, come ci ha spiegato quella volta quel professore dell'università a Roma 3. È una malattia che purtroppo è una patologia con cui condivido, perché in realtà è contro la natura dell'uomo, diciamoci la verità. Poi, per carità, fa parte ormai della cultura, la famiglia, il cattolicesimo e quello che vogliamo. Però se andiamo a vedere bene, diceva quello studioso che io seguo pedissequamente, è qualcosa di innaturale, totalmente innaturale, cioè non è proprio nella natura dell'uomo. È inutile che ci vogliamo sforzare che sia così. Quando è così, cioè quando pensiamo di essere monogami, è in realtà perché ci reprimiamo, perché non siamo naturali, non siamo noi stessi, giusto amico mio, giusto? Appunto, no? Allora io mi dico, no? Chiedo anche a Parenzo. Sì, non è la persona giusta a cui chiedere questa cosa, però vabbè, io voglio sapere, ma che cazzo, chiedelo Parenzo, a Muslim, chiedelo a Muslim. Attratto, non sei attratto da nessun'altra oltre che sia tua moglie. Ma no, ma che non cosa c'entra quello? Ma non in vuol dire questo niente. Momento non è attratto da nessun'altra che non sia la sua compagna. Ma è impossibile, porca puttana. È impossibile. Ma no, ma se uno sta bene, una ma poi mi sarà magari anche capitato. A me m'arrapa. Mi sarà anche capitato, ma magari. Ma brutta. Voglio dire, però, la scelta di vivere e convivere con una persona che immagini possa essere quella della tua vita, vuol dire che a un certo punto, però, non ti serve altro, no? Non è che se io vedo una bella. Parliamoci chiaro, caro. Amico, non è che se io vado per strada e vedo una bella ragazza non la guardo e, dentro, e, no, e non penso che cioè, però sono tu matto dici l'idea di scoparmela, ma non mi metto neanche ma per carità di Dio, ma non mi metto neanche nella condizione, vedi di che hai un pregiudizio, il pregiudizio del corpo, dell'uccello, no, della vagina, ti sembrano delle cose che creano peccato, il peccato, capito? Peccato, il peccato. Ciao amico mio, ciao. Ora, per presentarvi l'ospite di quest'ultima parte della puntata, mamma, faccio sentire un audio, perché è una specialità molto interessante. Posso dire mamma mia? Aspetta. Il mio famoso anal ringing, per chi non lo conoscesse, ho detto anche CPC, culo palle cazzo. Molto interessante. E vi scopo il culo con la mia lingua. Beh, molto interessante questa specialità, interesserà moltissimi ascoltatori. Il personaggio in questione si chiama Sabrina. Buonasera. Ciao, buonasera. Cara, sono Sabrina, una tua fans prima di tutto, Cruciani. Ti seguo sempre nei salotti politici. Grazie Sabrina, molto gentile. Allora, tu parti praticamente da Colpo Grosso, quando giovanissima addirittura facevi la valletta. Sì. Da quant'è che fai la prostituta fondamentalmente, la escort? Il lavoro più attivo del mondo. Cioè? Non piace più chiamarlo così. Sì, no, ma io dico escort, prostituta, puttana, sì, ma in modo non offensivo, sì, come sai, no? No, cioè... no, ma figurati, io non mi offendo affatto. Da quanto tempo lo fai? Ma guarda, forse il 96. Beh, siamo, no? Praticamente sei una escort di lungo corso, si potrebbe dire. Sono una MILF. Quindi, sei una MILF. Cosa, 60 non anni? Cooper, sei una no, granny, che 60 anni? Ce ne avrà 45. Quanti ne hai? Ma se ha fatto Colpo Grosso... Guarda, allora, l'età è una cifra, ma non vengono da me per questa cifra, ma per altri numeri. Ma certo, non c'è dubbio. Ma guarda che... 40 e 50, diciamo. Vabbè, va, ne avrai 45. Se non ti fai conti con Colpo Grosso, 50, dai, più o meno si sa, dai. Sì, dai, ne avrai una cinquantina. Ero un bambino quando guardavo Umberto Smaida. Ma com'è che hai iniziato a fare la escort? Per motivi di soldi, puramente di soldi, oppure perché sei sempre stata attratta da qualche cosa? No, mi è capitato che me li offrivano anche quando io ero totalmente contraria, mandavo a fanculo le persone per strada, mi fermavano. Alla fine poi è capitato, le ordini della vita, insomma, mo, non voglio rattristarvi. Però soldi, no, fondamentalmente soldi. Ho cercato soldi. Di unire l'utile al dilettevole, il dilettevole all'utile. Senti, tu sei specializzato in una cosa che abbiamo sentito prima, che io farei risentire perché è eccezionale, e anche più lungo, beh, che è il rimming, no? Il rimming. Però c'è una variante il nel rimming. Conosco, no, io, ma questo non sia la stessa cosa. No, il rimming non è la stessa cosa. Non lo so io. Il rimming è, cioè, sostanzialmente... È un modo carino per dire la leccata di culo. Anna, il rimming in inglese. Senta, signora, per piacere, insomma, c'è no? molta gente che è a cena in questo momento. Ma fa bene, ma scusa, te non ti hanno mai leccato il buco del culo, David? Scusa, non ti hanno mai leccato il buco del culo? Ancora con questa storia. Tu osi dire che non ti hanno mai leccato il buco del culo? Passo per strano io. La cosa è incredibile. Facciamo risentire la signora Sabrina. Ma sono meglio le leccate di culo, diciamo, reali, materiali, che quelle metaforiche dei politici, che sinceramente fanno più schifo. Assolutamente, no? Facciamo risentire. L'igiene, l'importante, la pulizia, l'igiene. Poi si può fare di tutto. Io ecco, questo facciamo signora, risentire, facciamo è arrivata risentire. La signora. Il mio famoso anal rimming, sì? Per chi non lo conoscesse, ho detto anche CPC, culo palle cazzo. E si mette lì. Il culo con la mia lingua. Allora, la posizione ideale è questa, Sabrina. Mi sembra che l'uomo sia sdraiato, no? Pancia all'ingiù, fondamentalmente, con il sedere un po' rialzato, ovvio. Sì, quasi metto un cuscino sotto la pancia. In ginocchio. Perché... Tu sì, praticamente. Ma... Sì, sì, ma... descrivi tu la situazione, descrivila. Sì, diciamo che è un. Preferisco iniziare così, in modo che la persona comunque lo veda più come un massaggio e si rilassi e non si senta neanche tanto in colpa del tradimento, perché è una prestazione eccezionale, particolare, come il gola profonda, che non fa quasi nessuna, per cioè, cui tu praticamente non si sente infili di tradire la compagna, perché è un'esperienza particolare. Cioè, perché ecco, dopo quello non c'è la penetrazione, praticamente fai solo, ci si può limitare solo a quello? Sì, sì, impazziscono anche solo con questo, sì. Cioè, praticamente tu inizi, dall'alto, dal buco del culo dell'uomo, diciamo, dal buco, sì, del sedere dell'uomo, lo penetri anche con la lingua profondamente, giusto? Rimming? Sì, perché rimming sarebbe il bordo, il mio non è proprio un rimming, è un fucking alla fine, perché io ti scopo proprio. E poi con la scendi lingua. Giù, scendi giù, giusto? Scendi giù sugli, sì, sui testicoli e poi vai fino al perineo. Fino al perineo. Perineo, perineo. Cioè, perineo. Praticamente questo pisello, vedo qua, praticamente sporge dal cuscino. Cazzo, che è un acronimo che ho trovato io carino per scriverlo su un annuncio che avevo, perché non si poteva scrivere in modo esplicito le prestazioni e sessuali. Come finisce? Allora, come finisce questa prestazione? Spiegami. Aspetta, che poi è un acronimo palindromo, perché puoi dire palle, sì, culo palle cazzo, cazzo palle culo. Assolutamente, molto ma brava, che bella lezione, molto brava, di molto glottologia. Scusami Sabrina, lezione. Come finisce la questione? Con l'uomo che viene semplicemente, oppure si può passare poi alla, no, diciamo... questo è in preliminare, però se ti piace questo lo posso fare anche per un'ora eccetera. Quanto costa farsi fare un CPC da te? Non ho capito, scusa? Farsi fare un CPC da te, quanto può costare? Allora, io non vado a prestazioni, io vado a tempo, cioè io offro un menù, certo. Fammi un esempio, sto un'ora da te, quanto costa? Un'ora 200. Senti, c'è uno può venire quante volte vuole, quante volte riesce. Ma con 200 euro vado a cena da Heinz Beck, scusa, ma che cazzo di discorso è? No, dico, con 200 euro vado a cena da Heinz Beck. Ma molto meglio farsi fare CPC da Sabrina piuttosto che da Heinz Beck. Ma vado a cena da Heinz Beck io con 200 euro. Scusami Sabrina, però c'è un'altra particolarità. Senti questa che è molto interessante. Tu sei contorsionista, sei molto snodata, giusto? Sono fatti suoi. E riesci a fare che cosa? Dimmela, raccontamela, perché me l'hai detta, diciamo, fuori dall'onda, l'hai detto un mio collaboratore, ma è straordinario. Foot job e pompino insieme. Scusa, sì. Gottardo, questa attenzione. Cioè, tu riesci a fare foot job e pompino nello stesso tempo? Come cazzo è possibile? Si è allenata in un circo, signora? Lei ha arti circensi? Perché è una cosa che è la prima volta che lo sento in vita mia. Ma è una cosa del genere. Sono snodata di mio da piccolo. Ho fatto un po' di ginnastica artistica. È una mia caratteristica. Beh, stupendo. Lei ha mai provato la penetrazione durante il foot job e pompino insieme? Ad esempio, con due uomini sarebbe una scena fantastica. Io sono un po' dominante, non è che io sono un po', non sono molto predisposta con più uomini, eccetera. Sono un po'. Ho capito. Insomma, preferisco l'uomo un po' passivo, che me lo rigiro come un pedalino, come si dice a Roma. Me Brava. Lo recco dalla testa ai piedi, come si dice a Roma, il pigiamino di saliva. Cioè tu sei praticamente, aspetta un attimo, tu sei praticamente una leccatrice di uomini. Cioè, sì, sei no, infatti, mangiatrice di uomini no, leccatrice di uomini, ma mi passa da padrona, non da io faccio le cose da schiava, tipo leccare certo. i piedi, leccare il culo, però non li faccio da schiava, neanche da padrona, pazzesco. Da mangiatrice di uomini. Senta, dove troveremo questa intervista? Sul Sole 24 Ore, domani cartaceo, uscirà questa intervista alla signora? Ma magari sarebbe un trionfo di copie, ragazzi. Alla signora Sabrina. Tu sei hai un partito politico di riferimento? Sì, probabile. Non vi se parlate tutti insieme non capisco. Sì, è quelli purtroppo non capisco. Non capiscono un cazzo questi qua. Dicevo che un'altra particolarità del rimming fatto in questo modo è che nello stesso tempo riesco a massaggiare col mento il perineo. Ah, col mento riesce a massaggiare il perineo, cioè sì. col mento. E mentre... quindi è un orgasmo più forte, un po' prostatico, senza avere il fastidio del dito nel culo. Ah, tu riesci praticamente a fare un massaggio... A tanti non piace il dito, il massaggio no. prostatico vero, perché come si dice a Roma, fastidioso come un dito al culo, perché... E invece, tu con invece tu col mento praticamente riesci a fare quasi una penetrazione. Il linguamento, sì, e poi riesco a prendere in bocca sia... tutte e due le palle insieme. Beh, quello sai, quello non è no, vabbè, come se fosse una novità. No, anche col cazzo tante volte, se non è di misure grandi, io sono gola profonda. Però. Cioè tutte e tre insieme. Io sono gola profonda, non so se hai visto. Tutte e tre insieme. Senti, hai un partito politico di riferimento? Hai qualche tessera di un partito per caso? No, non credo. Salvini. Non ho altre domande, vostro onore, grazie. No, da poco, da quando si è instaurato questo governo abusivo. Non aggiunga altro, il governo abusivo, vedi? Sì. Sinceramente non era né di destra né di Ma hai preso addirittura la tessera? Sì, l'ho fatta per dispetto per questo governo, sì. Non ho altre domande. Della Lega, per me possiamo fermarci qua. che programmi guardi di solito? Una che io sono Mediaset, per me la Rai non esiste, nessun altro canale. Che ne so, Giordano, Del Debbio. No, che... Sì, tutti sono tutti politici. Però non guarda la 7, giusto? Sono fatta la cultura di tutte le ospitate, di tutti i giornalisti. La 7 in onda. La 7 non la guarda. Onesto che mi piace pure se è di sinistra, tipo Sansonetti ultimamente non mi dispiace. Cioè, ah, vedi Sansonetti, invece... Anche la Fusano ha messo dei torti di questo governo, ti dirò, mi sono ricreduta sulla Fusani. Sì, però la 7 non la guarda, vero? Mi dia una conferma. No, non l'ho mai vista. Mai vista. No, io sono per i film Sky, Netflix e poi per i programmi, eccetera. 4. Canale 5 certo. media, grazie dal profondo del cuore, davvero. Grazie. Grazie Sabrina, grazie, a presto. E viva le leccate! Ciao. Viva le leccate! Ciao italiani! Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. So, alle 8, hai ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.